Storielle. Storiacce di Raffaella Calandra. Sto partendo dalla stazione in questo momento. Occorre plasma. Il caso Mogbel, no? A un certo punto dice il suo interlocutore: conosci Mambre Fioravanti, no? Quei due mi sono costati 1,2 milioni di euro per tirarli fuori dalla galera. Allora, siccome il fatto che questi siano liberi, abbiano avuto la liberazione condizionale, addirittura Fioravanti ha già scontato tutti i suoi 7 ergastoli, i suoi 135 anni di carcere che avrebbe dovuto fare, ti lascia pensare. Una bomba alla stazione, una strage, la più grave in Europa in tempo di pace, e una verità ancora da svelare del tutto. 30 anni dopo quel 2 agosto, Bologna resta un cumulo di domande, come le macerie di quella sala d'attesa sventrata dall'esplosione. Uno squarcio mai sanato, come la ferita sul muro lungo il primo binario e come l'orologio fermo alle 10:25 di quel 1980. Eppure, 30 anni dopo, ogni tanto segnali di novità, indizi di nuove strade si aprono all'improvviso, come quella ricordata dal presidente dell'Associazione delle Vittime, Paolo Bolognesi. Gennaro Mokbel, arrestato nell'inchiesta sul maxi riciclaggio Fastweb, considerato vicino alla banda della Magliana, parla in un'intercettazione di Mambro e Fioravanti, i due ragazzi terribili condannati come esecutori di quella strage. Ed è solo l'ultima traccia che spunta, mentre resta aperto il fascicolo della Procura di Bologna sul terrorista Carlos e gli scenari internazionali. Tutte strade che rischiano di essere solo vicoli ciechi per la coltre di un segreto di Stato mai sollevata, nonostante ufficialmente su Bologna neanche esista. Un segreto custodito nonostante 30 anni siano passati dalla strage e una legge stabilirebbe la caduta di ogni velo dopo quel termine. Una strage dove i misteri restano fitti, come la polvere della stazione che avvolse i vivi e i morti. Per quello che riguarda tutto l'aspetto processuale, noi ci troviamo ad avere due processi molto importanti, uno terminato nel 95 e un altro terminato nel 2007, che hanno determinato che gli esecutori materiali, cioè Fioravanti, la Mambro e Ciavardini, e i depistatori, il gran maestro della loggia massonica P2, Licio Gelli, il faccendiere Pazienza, il generale Musumeci e il colonnello Belmonte, che erano ai vertici del SISMI. Teniamo presente anche che il generale Santovito, che era il direttore del SISMI, non fu condannato perché morì durante il processo. Mancano i mandanti e gli ispiratori politici di questa strage, e questa è una ricerca che io credo non debba mai terminare. Come mai questa è l'unica strage in cui, nonostante ci siano già stati processi conclusi, i depistaggi, le false piste, le indicazioni diverse, cioè il desiderio, la volontà di andare a demolire quello che è stato le risultanze processuali non smettono mai. E credo che questo debba fare una riflessione. Dopo che abbiamo sentito l'esplosione, io ero in via Barberia, quindi diciamo a non più di 500 metri al massimo dalla stazione, sentiamo questa esplosione e andiamo di corsa alla stazione. Arrivati alla stazione c'era un gran caos, il fumo, la polvere, tutti gridavano, quindi la stazione esplose una bomba. E lì c'era appunto cadaveri, feriti, rottami, pietrici da tutte le parti. Le immagini che gli occhi di Giorgio Lolli immortalarono quella mattina nella memoria si impressero nella pellicola della telecamera, fotogrammi di una strage appena compiuta. Le pietre, un treno sventrato, ecco, gente buttata sul treno, un altro, mi ricordo, un moto, un cadavere sotto a un treno dalla parte interna della stazione, e poi l'orologio, ecco, che è rimasto fermo. Segnavano le 10:25, le lancette dell'orologio, quando un boato sventrò la sala d'attesa e le vite di donne e bambini che stavano partendo per le vacanze furono inghiottite nel cumulo di rovine. Le immagini di Lolli bloccano l'incredulità dei primi arrivati, occhi sbarrati davanti a quanto non si riusciva a credere potesse essere accaduto. Tra la polvere si intravedono dei corpi. Nulla è rimasto dell'ala sinistra della stazione, l'insegna del bar sembra sospesa nel vuoto, nel silenzio. silenzio quasi spettrale, i microfoni registrano solo i passi incerti dei primi soccorritori. Si inerpicano sulla montagna di macerie, scavano ognuno come può alla ricerca di sopravvissuti. A un certo punto mi trovavo solo quel momento lì e allora mi sono fatto dare una mano a reggere lo strumento dal video da un ragazzo che era lì e aveva scavato con le mani tra i sacchi e le macerie per poter tirar fuori i feriti. C'era una gran corsa, tutti volevano partecipare a fare il possibile, a dare il meglio di loro. Dopo diciamo una decina di minuti, 15 minuti, sono cominciate ad arrivare le ambulanze. In un primo tempo tutta la gente si cercava di arrangiare, no? Ognuno cercava di estrarre i feriti, e addirittura c'era un autobus, uno dei primi autobus che era lì in stazione e caricava i feriti, hanno caricato i feriti sull'autobus prima ancora che arrivasse le ambulanze. Si vedeva passare un autobus, era un autobus bicolore, quello della TC per intenderci, era quello della linea 37, ma aveva... Sì, aveva qualcosa di strano quest'autobus della linea 37. Ma intanto di solito non passa di qua, no? E poi, che cosa sono quelle tendine bianche? No, ma non sono tendine. Sono lenzuola. Occorre plasma al San Borsalo, all'ospedale maggiore. Dammi Roger. Di quale qualità? C'è qualche cosa? Intervenire tutti quanti perché le persone sono parecchie, dammi Roger. Sono morti anche dei miei colleghi di trabacco, di tassisti. Ascolta, qui c'è un signore che mi sta chiedendo se avete bisogno di medici, che è qui alla mia macchina. E infermieri anche. Sì, sì, agli ospedali e anche in stazione ne avevano bisogno prima. Ditemi, fate presto. Se hai bisogno posso tenermi a tua disposizione. Nelle comunicazioni originali della sala operativa la drammaticità di quanto accaduto è nella voce di chi parla. C'è la correre di una città ferita che si mette in fila per donare il sangue e subito cerca di reagire a quell'attentato che aveva portato via la vita di donne e di vecchi che avevano visto tanto, come Antonio Montanari, 86 anni, sopravvissuto a due guerre, e di giovanissimi che allora si stavano affacciando alla vita, come Marina Trolese, 16 anni, o dei più piccoli che quella mattina in stazione tenevano per mano i genitori. Luca Mauri aveva 6 anni, Angela Fresu, la più piccina, solo un mese dopo sarebbe andata per la prima volta all'asilo. Di anni ne aveva solo 3. La mamma la identificarono giorni dopo. Chi era lì da subito capì che si trattava di un attentato e non accettava la versione per ora diffusa dell'esplosione di una caldaia. GR1, edizione straordinaria. Buongiorno, Duccio Guida al microfono del GR1. La rete ci ha passato la linea per darvi una notizia purtroppo agghiacciante. Una violenta esplosione ha fatto crollare parte della stazione centrale di Bologna. Ci sono morti e feriti. Devo smentire almeno parzialmente, perché sta prendendo sempre più credito invece da un primo esame dell'epicentro dell'esplosione, adesso che molte macerie sono state rimosse, l'ipotesi che sia invece scoppiata una caldaia dell'acqua calda posta nel seminterrato del ristorante. Era un attentato, il più sanguinoso mai compiuto in Italia in tempo di pace, e per quella strage, dopo un'altalena di sentenze e revisioni, sono stati condannati in via definitiva all'ergastolo due militanti dei NAR, Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, e poi Luigi Ciavardini. Ma loro, gli ex terroristi neri, da sempre respingono questa accusa e, seduti alla loro scrivania negli uffici del Partito Radicale, danno la loro lettura. Noi siamo usciti perché dopo 20 anni di carcere, i governi di centrosinistra hanno deciso che era arrivato anche il momento, forse anche una sorta di riparazione. Noi abbiamo anche detto quello che abbiamo fatto, ma Bologna con noi non c'entra niente. Secondo me questo paese ancora deve scrivere quella pagina e prima o poi forse la riscriverà, non con i nostri nomi. Una pagina da scrivere, ma non con i nostri nomi, ripetono Mambro e Fioravanti, che non hanno però mai presentato richiesta di revisione del processo. Ma com'è possibile che, pur condannati a più ergastoli per una strage così, siano già fuori? È uno scambio, come dicono loro, o è il regalo del silenzio, come ritiene Bolognesi? E ora queste parole di Mokbel che significano? Il presidente dell'Associazione delle Vittime del 2 agosto ha una sua idea precisa. Ogbel, uno legato alla banda della Magliana, eccetera, che a un certo punto dice nel suo interlocutore: conosci Mambre Fioravanti, no? Quei due mi sono costati 1,2 milioni di euro per tirarli fuori dalla galera. Non c'è una motivazione seria nelle motivazioni che sono servite al giudice di sorveglianza per dargli la liberazione condizionale. E allora anche questo fa riflettere. E come mai questo qui ha speso 1,2 milioni di euro per tirarli fuori? Allora questi sono interrogativi che noi vogliamo porre ai giudici che stanno indagando. E non dimentichiamo anche un'altra cosa, che il primo depistaggio in assoluto che era arrivato, oltre la caldaia naturalmente, eccetera, è stato quello della pista palestinese. Lei ci crede all'ipotesi Mokbel del suo ruolo nell'uscita dal carcere di Fioravanti e Mambro? È comunque un'intercettazione di un certo tipo. Qui si è visto che molte intercettazioni sono intercettazioni che portano a degli sviluppi di indagini insperate. Le dichiarazioni di Fioravanti nel momento in cui hanno tirato fuori Mokbel, ha detto subito: ma questo è un ladroncolo, è un poveretto, ha sequestrato miliardi su miliardi di diamanti, gioielli, cose varie, stanno girando fiumi di denaro, perciò la potenza di queste persone è grandissima. Quindi ipotesi Mokbel, lei ci sembra crederci? Beh, io vorrei svilupparla. Quindi nuove indagini, certo, ad hoc su voglio questo. Dire, sono 3 anni che fanno un gran casotto su questa situazione dei palestinesi che a mio parere non porterà da nessuna parte. Beh, impiega qualche ora anche su Mokbel, che forse non è un guaio. A proposito dei palestinesi, forse. Lei prima diceva, appunto, l'ha ridetto, credo che non porti da nessuna parte, è forse un buco nell'acqua che anzi distoglie dalle indagini per andare a vedere chi sono stati i mandanti. Nella sua lettura sembra quasi di vedere magistrati strumentalizzati in questo tipo di indagini per evitarne delle altre. Io dico questo, che a un magistrato gli arrivano delle documentazioni, è bene che le approfondisca e le guardi. Poi viene molto dalla commissione Mitrokhin, che, ripeto, prima vi ho accennato una serie di comportamenti, io la prenderei con le pinze. Voglio dire, nel momento in cui si vedesse che è stato non portano a niente, a questo punto bisognerà anche chiedersi che compito ha avuto la commissione Mitrokhin. Come se invece portassero a qualche cosa, bene, la commissione Mitrokhin ha dato una mano. Ma non le ha mai venuta in mente l'ipotesi di valutare, quantomeno, di riflettere, pensare se ci possa essere un qualche margine di verità in quello che dicono anche Fioravanti e Mambro sul fatto che il fatto stesso che loro abbiano goduto di questi benefici e della loro libertà sia una forma di scambio con il fatto che loro rivendicano una estraneità con Bologna? Noi riteniamo che il comportamento processuale di Mambro e Fioravanti spiega il perché hanno avuto questi favori, che sono questi sono i detenuti più favoriti nell'arco dei carcerati italiani, eccetera, quando erano carcerati, eccetera. E noi riteniamo che questo sia dovuto al silenzio che loro hanno sempre mantenuto nei confronti del chi stava sopra loro e nel non voler rispondere a determinate domande, nel portare ad altre cose e di non aver mai collaborato da nessuna parte con il discorso della giustizia. Loro hanno scontato sì e no 2 mesi per ogni morto ammazzato, senza escludendo tutti gli altri anni che avrebbero dovuto scontare per altri delitti. E questi sono favori che non si fanno perché tu sei innocente, allora io ti faccio. C'è stato un iter processuale estremamente corretto e la Cassazione è intervenuto 2 volte nel primo processo, 2 volte nel secondo processo, cassando le sentenze, cassando in un caso le sentenze di assoluzione e condannando definitivamente sia Mambro Fioravanti e Ciavardini. Perciò io vorrei che si cominciasse ad attenere a queste sentenze. Ci vuole riaprire il processo? Ci sono gli strumenti in Italia per riaprire il processo. Riaprire il processo, rifacciamo il processo. E i familiari delle vittime non sono contrari a riaprire il processo. Però è ora che la finiamo, che ogni tanto arrivano fuori delle bagianate che non stanno da nessuna parte, non stanno in piedi per poter riaprire il processo. Storielle. Storiacce. Una strage di 30 anni fa, il sangue di 85 vite e una verità dai contorni ancora da definire. 2 agosto 1980, 2 agosto 2010, sotto l'orologio fermo della stazione di Bologna, sono ancora tante le domande che aspettano risposte sul più grave attentato in tempo di pace. Le sentenze hanno stabilito chi furono gli esecutori materiali di quella strage, gli ex terroristi neri, Francesca Mambro, Valerio Fioravanti e Stefano Civardini. Sono stati ricostruiti i parte dei depistaggi, ma nulla ancora è stato definito sui mandanti. Come è stato detto per la mafia, forse la politica non potrà reggere il peso delle verità e per questo impone ancora il suo segreto? È la domanda che Paolo Bolognesi, presidente dell'Associazione delle Vittime, si pone. È una delle due stragi che hanno avuto una sentenza che ha portato comunque a degli esecutori. Tutte le altre stragi non hanno avuto né gli esecutori e soprattutto nessuna ha avuto i mandanti. Allora io credo che ci sia un fatto fondamentale qui. Oltre gli esecutori materiali, in questo caso ci sono i depistatori. I depistatori sono uomini che all'epoca erano potentissimi. Questa loggia massonica controllava praticamente tutta la vita politica e la sicurezza del nostro paese. Io credo che una delle ragioni per cui ancora oggi continuano i depistaggi è per non arrivare ai mandanti soprattutto, ma soprattutto anche per fare in modo di riuscire a far sì che il coinvolgimento della loggia massonica P2 nell'ambito di questa strage venga annullato, venga dimenticato. Questo è, secondo me, l'obiettivo dei depistaggi attuali. Ma oltre ai tanti buchi neri, anche quelli che dovrebbero essere punti fermi per molti in realtà non sono tali. Molti, come il giudice Rosario Priore, magistrato che indagò su quell'anno di stragi italiane, dall'Italicus a Ustica fino alla stazione di Bologna. Per lui le verità giudiziarie sono traballanti, un aggettivo che Bolognesi non accetta. C'è da dire molto onestamente, siamo rimasti delusi per quello che aveva scritto. Delude un'affermazione di questo tipo perché questa situazione ha avuto un percorso fino al 95 in cui ci sono stati due interventi della Cassazione. Ricordatevi che un primo intervento fu fatto dopo il primo processo d'appello in cui Mambro e Fioravanti erano stati assolti per l'esecuzione della strage, ma erano ritenuti colpevoli per la banda armata finalizzata all'esecuzione della strage. E la Cassazione cassò quella sentenza e fece rifare il processo d'appello. E nel secondo processo d'appello furono condannati. Questi condannati dissero che avevano prove a iosa, se fosse passata la condanna avrebbero riaperto il giorno dopo il processo e avrebbero rifatto. Allora, non hanno mai richiesto la revisione del processo. Ma c'è di più, col fatto che dopo il 95 iniziò il processo Ciavardini era un minorenne, e il processo praticamente lo fecero partire subito dopo la sentenza di Cassazione. Loro furono rinterrogati, avrebbero avuto tutta la possibilità che si riapre praticamente il processo senza dover chiedere delle revisioni, e lì ci infili dentro tutte le prove, tutte le cose che ti scagionano. No, loro hanno detto semplicemente: confermo tutti i verbali precedenti, in 5 minuti sono usciti dall'aula. Allora, se il pubblico è un pubblico che ama l'innocentismo romantico, così sai, uno che è in galera, capro espiatorio, cose di questo tipo, allora va bene, tesi traballanti, tutto quello che vogliamo, eccetera. Però se uno pensa anche a questi fatti, è stato fuori che la tesi non è traballante, anzi, tutt'altro, ha tenuto per 2 volte il primo filone di processo, 2 volte la Cassazione, nel secondo altre 2 volte la Cassazione è intervenuta. A questo punto Priore dovrebbe piuttosto pensare al suo processo per Ustica, che la Cassazione l'ha cassato. È uno dei tentativi di demolizione di cui parlava prima. Sì, anche questo è uno dei demolizioni. La commissione Mitrokhin ha messo in piedi tutto questo discorso del caso Cram, la pista palestinese, eccetera. Questa non è una pista nuova, è una pista vecchia. Il primo che tirò fuori questo discorso della casualità, un carico di esplosivo che era fermo in stazione, poi uno con un sigaro gli ha buttato lì il sigaro e è saltato per aria tutto, l'ha tirato fuori Gelli nell'81-82. Solo che questa tesi hanno cercato pian piano di recuperarla, di rimetterla in ordine. Poi adesso è venuto fuori il discorso del Lodo Moro. Siccome c'era questo impegno da parte della politica italiana: cari palestinesi, voi non fate attentati sul suolo italiano, potete trasportare, eccetera, eccetera, e nessuno sarà catturato, eccetera. A parte il fatto che se tu Lodo Moro lo vuoi rivendicare che non è stato mantenuto, eccetera, lo fai a Roma un attentato del genere. Poi c'è stato il collegamento Ustica-Bologna e anche questo non ha tenuto. Gli unici collegamenti che ci sono i depistaggi. Noi riteniamo che anche questa pista che stanno trattando il Tribunale di Bologna, che sia un buco nell'acqua, una cosa per far perdere il tempo e per non andare sugli scenari dei mandanti e dei possibili dei gradini superiori al Mambro e Fioravanti, tanto per intenderci. Ma quali sono i gradini superiori rispetto a quelle persone che le sentenze hanno giudicato gli esecutori materiali? Una domanda che forse potrà trovare risposta solo se e quando ogni documento sarà reso noto, analizzato, indagato. solo quando ogni segreto sul buio di quegli anni in cui la stabilità stessa della nostra democrazia fu da molti considerata a rischio verrà svelata. Anche se una legge del 2007 va in questa direzione con la caduta della segretezza dopo 30 anni sugli atti, i fatti e le ultime indicazioni vanno in realtà in direzione opposta. Li conducono le proposte recenti della cosiddetta Commissione Granata e lì soprattutto sembrano andare i gesti concreti che su Bologna, come su Ustica o in altro contesto, sulla stagione delle stragi di mafia del 92, la politica sembra avere. Gesti nutriti di silenzio e ancora una volta dal palco davanti alla stazione, dopo che la sirena avrà alle 10:25 reso omaggio alla memoria delle 85 vittime, sono risposte quelle che bolognesi chiederà alle istituzioni e alla politica. Dall'84 ad oggi abbiamo avuto governi di destra, di sinistra, di centro e sul segreto di Stato tutti hanno fatto la stessa figura. Calma, gesso, non si tocca, tanto per intenderci. Perciò io vorrei dei politici estremamente diversi che avessero a cuore la verità e la verità fino in fondo, senza guardare in faccia a nessuno. Io credo che se la politica non è in grado di resistere alla verità completa sulle stragi, cambiamo la politica, ci togliamo dalle dosso un po' di quei politici. Poi per quanto invece riguarda il segreto di Stato, allora nella strage di Bologna non è mai stato posto il segreto di Stato. Quante cose al limite non sappiamo a cui il giudice non è arrivato? Allora noi cosa chiediamo? C'è stato nel 2007 approvata una legge che riforma i servizi segreti e riforma anche l'utilizzo del segreto di Stato. Allora diciamo che passati 30 anni dall'avvenimento, tutte le cose esistenti relative a queste faccende debbono essere portate alla conoscenza dei magistrati, di chi fa ricerche, eccetera, eccetera. Tutto. Interrogativi posti da bolognesi a nome di chi è sopravvissuto e soprattutto di chi, invece, quella mattina di 30 anni fa morì sotto il boato di una bomba che cambiò la vita di una città e il viaggio di un paese intero. Per questo lo squarcio nel muro della stazione ora è diventato patrimonio UNESCO come memoriale per la pace e per questo, quest'anno, i nomi delle 85 vittime saranno letti da due ragazze che non erano ancora nate il 2 agosto del 1980. Proprio come i giovani della scuola di giornalismo di Bologna di quest'anno che a bolognesi hanno rivolto le loro domande. Viene riconosciuto questo memoriale come uno di quei monumenti che possono ispirare alla pace, aiutare alla pace, aiutare i giovani a meditare sulla pace. Vi ricordo che potete riascoltare questa puntata di Storiacce come tutte le altre sul sito radio24.it e da lì avere accesso anche al nostro nuovo blog, il blog di Storiacce. Ciao, a sabato!